Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Si avvicinavano le regate di Napoli e il nome di Eneo era su tutte le bocche. Lui però nessuno lo vedeva. Berto assicurava che si allenava di mattina presto, quando la Virtus era deserta, e che durante la giornata se ne stava quieto per conto suo, per mantenersi in forma. Berto agognava di accompagnare Eneo a Napoli. Sosteneva di essergli indispensabile per tenergli e preparargli lo skiff e confidava che la direzione gli avrebbe affidato quell'incarico. «La coppa al ritorno, voglio portarla io», diceva Dario. «Te la immagini?» «Che cosa?» «La coppa!» «Ah», faceva Ario, «come sarà?» «Grande, vedrai, ed argento, con qualcosa d'oro». Giunse la vigilia della partenza e appena allora si seppe che Eneo veniva accompagnato, anzi, preceduto di alcuni giorni a Napoli, dal segretario della Virtus e da un canottiere, uno degli anziani, uno specialista, che aveva partecipato o assistito a tutte le regate di quegli anni. Di Berto nessuno fece parola. In alto, sul terrazzo della canottiera, ove era corso per vedere e per essere solo, egli assistette alla partenza dello skiff con gli occhi luccicanti. Imballata dagli altri a regola d'arte, dopo che lui si era attardato quella notte a lucidarla un'ultima volta sino a farla più specchiante di un violino, l'imbarcazione attraversò la passerella sulle braccia alzate dei canottieri e non appena sul molo venne caricata sopra un camioncino che partì. Fu un momento indimenticabile tra gli auguri di 100 petti. Si gridava da ogni parte, non solo dalla Virtus ma da tutte le canottiere. Mani, berretti e fazzoletti si agitavano e sventolavano persino dai trabaccoli e dai rimorchiatori. Non si trattava più della Virtus, ma della città, anzi della regione intera. E i canottieri dei circoli rivali, e con essi tutto il mandracchio, fraternizzavano nella certezza della vittoria. Ario, in quel momento, dal terrazzo del suo pontone, guardava Berto. Ritto davanti alla balaustra, aveva gli occhi colmi di lacrime. La commozione di veder partire lo skiff doveva fondersi in lui con lo strazio di non poterlo accompagnare. Stette immobile e muto, quasi rigido, anche quando gli altri gridavano e salutavano. Ma Ario gli vide a più riprese sussultare la gola. Soltanto quando il camioncino fu per scomparire oltre la pescheria, verso la stazione, egli alzò un istante la mano e mosse le dita in un breve saluto, quasi si staccasse da una persona. Ario scese dal terrazzo e gli andò incontro. Era solidale con lui, con tutta l'anima. Traboccava d'indignazione contro i direttori della Virtus. «Hanno fatto male a non mandarti», lo investì guardandolo negli occhi appena si incontrarono. «Io credo, insomma, senza di te», proruppe, «non avranno fortuna. Vedrai». «Non dirlo», rispose Berto, e con la destra chiusa a pugno drizzò l'indice e il mignolo in segno di scongiuro. «Eneo deve vincere! Vincerà!» Oltre che con Berto, Ario si sentiva solidare quei giorni anche con Lidia, ma in un modo diverso, con una commozione più profonda e quasi trepida che gli pareva risalisse dai primi anni dell'infanzia. Erano entrambi senza padre, sebbene né l'uno né l'altra fossero orfani. Gli pareva che ciò li unisse con un intimo, oscuro legame che poteva sfuggire a tutti ma non a lui. Era un po' come se fossero fratelli. Non riusciva più a pensare a lei con rancore, come pochi giorni innanzi. Ogni ostilità, ogni acredine, ogni disprezzo erano caduti. Provava soltanto tenerezza e cercava di comprenderla in tutto. Lidia era una vittima del suo falso padre, di sua madre, di Eneo ora e persino di Berto. Ma adesso tutto si schiariva. Egli l'avrebbe sostenuta e difesa. E le avrebbe fatto vedere e capire tante cose. Si sarebbero aiutati a vicenda. Se vado in America, pensava con slancio, sarebbe bello partire assieme. Sì, partiremo assieme. Venne il giorno delle regate di Napoli. Nella sala delle feste della Virtus, al primo piano, sopra la rimessa delle imbarcazioni, un gruppo di soci e di canottieri, che andava continuamente crescendo, s'affollava intorno alla radio. C'erano ormai tutti. Anche l'armo della Iole A8, che tra una settimana doveva partire per le regate di Como, e gli altri canottieri che sin pochi giorni prima avevano stentato di burlarsi di Eneo, e anche il piccolo timoniere che aveva fatto l'atto di sollevargli e reggergli lo strascico. E tutti parlavano di lui, di Eneo, con orgoglio e con ansia. «È una società povera», dicevano, «la nostra, ma ora si vedrà. Che sorpresa e che trionfo! Tra un anno, al più tardi, la Virtus sarebbe famosa». «Alle Olimpiadi!» gridò uno, e un brivido di gioia passò per la sala. «Dobbiamo andarci tutti e accompagnare Eneo!» A un tratto si fece silenzio. Entrava il presidente. Sorridendo e salutando, il senatore attraversò la sala e si diresse verso la radio. «Cari ragazzi», ripeteva, e con cenni replicati li invitava a sedersi, sebbene non ci fossero seggiole per tutti. Quando si fu accomodato accanto alla radio, in una poltroncina di vimini, esclamò: «Questo sarà un gran giorno. Io ho sempre creduto in Sigon». E i più restarono interdetti perché, strano a dirsi, non sapevano che quello era il cognome di Eneo. Tutti lo conoscevano per Eneo, soltanto per Eneo. Poi il senatore toccò la radio e si udì la voce che da Napoli menzionava le società e gli atleti concorrenti. A questo punto Ario uscì. Lo irritava che si facessero tante commedie per quel superbo di Eneo, sebbene fosse curioso anche lui dell'esito del campionato. E desiderava incontrarsi nel frattempo solo con Lidia, che non aveva veduto lì dentro. Girò per i ballatoi e per i terrazzi, scese sulla zattera, guardò nella rimessa. Il pontone era deserto e Lidia non si vedeva da nessuna parte. Ritornò sul ballatoio di sotto e sbirciò per le finestre nel camerone se Lidia era forse là. Niente. Con una punta di dispetto e scuro in viso, quasi la ragazza gli avesse dato un appuntamento e vi fosse mancata, rientrò nella sala. L'animazione e il clamore che vi trovò non lasciavano dubbi. Era successo qualcosa. Nel mezzo ondeggiava un gruppo fra urli e spintoni e altri gruppi si formavano da ogni parte. Sembrava che tutti volessero farsi ascoltare e si spingevano per giungere al centro dei crocchi. Nelle pause una voce rauca si levava su tutte. «È un porco! Io ho sempre saputo che è un porco! Vedete ora, voi che eravate pazzi per lui!» Era il padre di Berto, in mezzo al gruppo che ondeggiava al centro della sala. Non smetteva di gridare: «Ci vorrebbe un castigo! So io che castigo ci vorrebbe per Eneo!» «Sentiamo!» Egli fece un gesto come per recidere qualcosa. «E poi mandarlo», concluse, mentre da ogni parte si rinnovava il clamore, «nella Cappella Sistina!» In un canto, Ario scorse Berto, pallido, tentò di raggiungerlo per sapere tutto da lui, ma quando, dopo essersi avanzato fra quegli infuriati, fu giunto sin là, non lo trovò più. Lo cercò da ogni parte. Era scomparso. Ma poco importava ormai. Che cosa poteva sapere di più? Aveva capito sin dal primo istante, sin da quando, dalla soglia, aveva visto quella bolgia. Eneo ha perduto. Ne provava a momenti un senso di soddisfazione, di rivincita, trionfante, pieno, e a momenti, nonostante tutto, come un senso stupito di inutilità, di vuoto. Eneo ha perduto, si ripeteva, tardando a persuadersene. Ha perduto. Sentì infine piacere per Berto Ecco, si diceva, non hanno avuto fortuna. Gli pareva che se avessero mandato a Napoli Berto, tutto si sarebbe risolto diversamente. Immaginava laggiù quello scemo del segretario della Virtus, allampanato e occhialuto, inutile e sempre tra i piedi di chi faceva qualcosa, instancabile nel dare impiccio, e il vecchio canottiere, sorridente e ottimista, insulso. Era sicuro che se Eneo fosse partito con Berto, tutto si sarebbe svolto altrimenti. E fu lieto per Berto che le cose fossero andate male. Ma poi si ricordò di come lo aveva scorto pallido in quell'angolo. Capì che egli doveva soffrire. Era il crollo di tutto per lui. E restò perplesso e quasi scontento, pure godendo della sconfitta di Eneo. A un tratto si trovò dinanzi il piccolo timoniere. Ma perché lo guardava in quel modo? Gli stava davanti, piantato a gambe aperte, fissandolo con un lampo d'ironia, quasi di sfida. «Bella figura, eh?» «Da vergognarsi», rispose Ario, e arrossì suo malgrado, quasi avesse da vergognarsi lui. «Dopo tanto chiasso, perdere in quel modo». Il ragazzo parve soddisfatto e anche sorpreso di udirlo inveire contro Eneo. Tuttavia lo interruppe. «Ma non ha perduto», disse. «Come non ha perduto?» «No, non ha perduto. Come fai a non saperlo? Non eri qui? Non hai ascoltato la radio?» «Ma come non ha perduto?» fece Ario esitante. E stranamente si sentì di nuovo arrossire, sino ai capelli, mentre in petto gli cresceva una vaga inquietudine. «Ma se tutti...» «Non ha perduto, ti dico. Ma dov'eri che non lo sai? Non ha partecipato! Le regate si sono svolte senza di lui. E questo...» Non riuscì a continuare. Alcuni canottieri, scorto Ario, gli si avvicinavano gridando: «Ehi, tu che sei il suo amico, spiegaci un po'. È andato a Napoli con l'intenzione di correre oppure...» Ma che, gridavano altri. «Non può essere un trucco. Ci dica piuttosto se è partito in forma o se già in partenza non si sentiva bene». Raccolti davanti ad Ario, lo guardavano con gli occhi fuori dal capo, accalorati e scomposti come dopo una lotta, e alcuni lo fissavano quasi con aria di minaccia. «Non sono suo amico», fu l'unica cosa che gridò Ario. Era impallidito, ma non di paura, d'emozione e di rabbia. «Come non sei suo amico?» rispose uno. «Se ti ho visto io pulirgli e lucidargli lo schif». «No!» urlò Ario. «Io non gli ho mai lucidato lo schif, mai!» Pallidito ancor più, e si sentiva tremare. Vide il piccolo timoniere allungare il collo per dire qualcosa a uno del gruppo. A quello gli parve che aveva gridato di averlo veduto lucidare lo schif. Questi ascoltò, curvandosi verso il ragazzino, con le sopracciglia corrugate. «Che?» alzò la spalla. «Lui o Berto? Non fa lo stesso!» Ricominciarono tutti assieme ad assalirlo. «Ma lasciatelo!» esclamò uno. «Cosa volete che sappia lui?» Gli voltarono le spalle e si diressero verso un altro gruppo. «Avete sentito come urlava di non essere amico di Eneo?» fece uno. «Adorano un atleta e poi non appena un incidente te lo rinnegano. Che ragazzi!» «Già!» assentivano tutti. «Ecco i ragazzi d'oggi!» Ario si sentì travolgere. «Mone!» gridò. «Con chi credete di avere da fare?» Si voltarono e stettero a guardarlo, interdetti. Poi uno, quasi avesse inteso appena allora, divenne rosso sino ai capelli e, mentre gli altri rimanevano incerti, mosse un passo innanzi come per affrontarlo. «Sì, mone che non siete altro, e vigliacchi!» gridò di nuovo Ario, sentendosi esaltare e perdere dalla sua stessa audacia. «Eneo, che ha tradito la Virtus, è uno di voi! Vedrete!» urlò. E lo travolse una nuova ventata. Fu come se qualcosa lo portasse in alto, facendogli turbinare il capo in un impeto di orgoglio e di follia. «Vedrete invece quello che sapremo fare noi!» Si sentiva già, in quell'istante, con sicurezza pari all'impeto che lo faceva gridare, campione, insieme a Berto, di Iole a due senza timoniere. Campione nazionale e del mondo. Sì, avrebbe vinto, ne era certo. Avrebbe trionfato, come quella volta che gli era parso di aver salvato il domatore. Lo sollevava e lo portava via la stessa ebbrezza di quella sera, quando era volato verso la gabbia mentre tutto il circo balzava in piedi. Nel gruppo, prima ancora che egli finisse, si alzò un mormorio, grosse voci di atleti, e si sorrise ostentando compatimento. Ma stranamente, nessuno reagì. Ario ebbe l'impressione di scudisciarli, così nerboruti come erano, spalle e torsi possenti, e poi di dominarli, di trattenerli dall'aggredirlo, con la sola forza dello sguardo. Li fissava tutti, scorrendone rapidamente i volti, diritto negli occhi. Uno solo sosteneva, fermo e ostile, le sue pupille. Ed era lo stesso che aveva mosso il passo innanzi, un giovane magro, con una spalla un po' più alta dell'altra e due occhi neri, acuti. Pareva il meno forte del gruppo, e forse non era neanche un canottiere. Fu lui l'unico a rispondere. «Voi?» domandò con una contrazione del volto che gli era divenuto di nuovo rosso. «Ma voi siete i lustrascarpe di Eneo!» Ario all'improvviso lo riconobbe. Era lo stesso che gli era venuto in aiuto esclamando «Lasciatelo, cosa volete che sappia lui?» «Gli mostrerò», pensò, «che so più di tutti loro». Ancora eccitato dalla sferzata che aveva dato loro gridando «Eneo che ha tradito la Virtus è uno di voi!» gli rise in faccia. «Io? Lustrascarpe Eneo? Ma sei il vostro idolo, l'idolo della Virtus, e io non sono neanche della Virtus, sono della Compagnia della Vela. Che volete che mi importi di lui e delle vostre regate? Per me Eneo è un canottiere!» e fece una smorfia. «Come tanti altri, anzi, più coglione, perché crede di essere chissà chi!» Aveva parlato tutto d'un fiato. Tacque un attimo, mentre quelli lo guardavano storditi. Poi riprese. «Alla sua forza, io non ho mai creduto!» Il gruppo ondeggiò e si levò un mormorio. «Alla sua forza!» si accanì Ario. «Non ho mai creduto, e vedrete se non avevo ragione! L'anno scorso ha vinto per caso. E del resto, forte o non forte, come non avete capito che non ha voglia di correre?» A parlare così di Eneo, a smascherarlo di fronte a tutti, provava un senso di rimorso, quasi di vergogna. In fondo pensava, pur così com'è, vale più di loro tutti. E tremava anche che qualcuno sapesse di sua madre e facesse qualche allusione. Ma ormai s'era lanciato, non poteva più tornare indietro. Pure un ultimo ritegno, infondendogli una lieve palpitazione, lo tratteneva. Usciva in quel momento dalla sala il padre di Berto. Sembrava ormai sfogato. Tuttavia, quando fu sulla soglia, Ario lo sentì esclamare «Cappella Sistina, quella ci vuole! Scommetto poi che si è anche sbronzato, oltre che andare a puttane, porco d'un mondo, altro che gare!» «Non è il padre di Lidia», non poté fare a meno di pensare guardandolo. «Lidia è figlia di un altro, chissà di chi, e lui se l'è tenuta in casa». Tutti i ricordi più oscuri e segreti, dall'infanzia in su, e le rivelazioni spudorate di Berto e la propria scoperta di qualche notte fa nel camerone, lo assalirono, come in un solo rigurgito amaro, serrandogli la gola. Gli parve di mancare. Poi, ancora una volta, gli turbinò il capo, mentre un'immagine, Eneo nel camerone, si sovrapponeva a tutte. Perduto l'ultimo ritegno, traboccò. «Sì, a Eneo non ci ho creduto e non ci crederò mai. Non vedete che gli piace fare la bella vita, che vuol diventare un signore? Lo sport è soltanto un pretesto per mettersi in mostra. Vuol trovare, scemi che siete, vuol trovare!» Esitò un istante, poi chiuse gli occhi, con l'impressione di buttarsi a capofitto, e urlò. «Una milionaria che lo mantenga, questo vuole!» I canottieri non protestarono più. Lo guardavano in silenzio. Erano ammutoliti, anche quello magro, e lo fissavano seri. Sì, era a questo che Eneo mirava, fare la vita del porco. Per pochi attimi si sentì inebriato. Vinceva lui su Eneo, sui canottieri, su tutti. E gli sembrò, nell'esaltazione del momento, una rivincita piena, travolgente. Ma subito ricadde, precipitò. E gli parve di sentire in bocca, tra la lingua e il palato, un sapore amaro. Ario! Ario! Giungeva una voce dal pontone vicino. Sua madre. Devo tornare, pensò. La donna quei giorni, sebbene Eneo fosse via, usciva ogni pomeriggio. A una cert'ora si toglieva i calzoni e la blusa da lavoro e con un vestitino leggero, da cui le gambe forti le uscivano senza calze, se ne andava dal pontone e lasciava Ario a fare la guardia, ad aiutare i soci sulla zattera d'approdo, sciogliendo e ormeggiando beccaccini, iolette e stelle, e a servirli nel guardaroba. Ario! Ario! Si udiva ancora. Si era oscurato, ma non indugiò. Fatto un cenno di saluto, si diresse all'uscita. Ma quando fu lì, si voltò di scatto, con gli occhi accesi. E io, ricordatevi, gridò, io non gli ho mai lucidato lo schifo.